America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24, da New York Mario Platero. Comincia fra un paio d'ore il vertice fra Barack Obama e Hu Jintao. Comincia dal punto di vista formale, ufficiale, con una cerimonia alla Casa Bianca, ma già ieri sera i due leader si sono incontrati, hanno cominciato a discutere di alcune delle problematiche sul tappeto, in particolare di tassi di cambio. Sappiamo che la Cina chiede che l'America rinunci in qualche modo a un ruolo predominante del dollaro nel sistema monetario internazionale, e sarebbe ovviamente questa una svolta storica. Ne parleremo in dettaglio domani. Una notizia: è morto Sergeant Shriver a 95 anni, il padre di Maria Shriver, la moglie di Arnold Schwarzenegger, il grande attore, ex governatore della California, una figura mitica della famiglia Kennedy. Era sposato a Eunice Kennedy, la sorella di John. Proprio in questi giorni c'è un po' di polemica perché è stato ritirato un documentario, un film televisivo sulla famiglia, perché sembrava che fosse un po' troppo osé sulle presunte relazioni extraconiugali dei due fratelli. La mano, si dice, dietro questo intervento per bloccare il film in televisione è quella di Caroline Kennedy, la figlia del presidente ucciso John Kennedy. Restiamo in tematica di show business. Ci sono stati i Golden Globe, il premio cinematografico dei critici stranieri a Los Angeles. Ebbene, si è affermato Social Network, il film su Facebook, il film che descrive le peripezie di Mark Zuckerberg, il giovane fondatore di Facebook, e il suo conflitto con Cameron e Tyler Winklevoss, che sono due fratelli che dicono di aver avuto l'idea, di aver affidato l'incarico a Zuckerberg di realizzarla, per poi essersi visti soffiare sotto il naso un progetto da oggi 50 miliardi di dollari. Ebbene, questi due fratelli hanno riaperto nei giorni scorsi una causa contro Mark Zuckerberg. La realtà romanzesca, la storia del film, diventa realtà. Il film è il principale candidato all'Oscar, ha vinto ben 4 Golden Globe a Los Angeles: miglior regista David Fincher, miglior film, migliore sceneggiatura, migliore colonna sonora. Una storia sicuramente molto interessante, ma quel che è più interessante è la battaglia per gli Oscar. Devo dirvi che proprio ieri sera ho parlato con alcune persone molto informate, mi hanno raccontato alcuni retroscena. Ebbene, la Sony sta investendo fra i 50 e i 70 milioni di dollari per promuovere il suo film The King's Speech, sta facendo pressioni sulla SAG, la Screen Actors Guild, il sindacato degli attori, e Harvey Weinstein, invece il produttore di The King's Speech, il discorso del re, questa storia bellissima di re Giorgio VI che aveva la balbuzia e dovette in qualche modo superare questo suo difetto nel momento in cui pronunciò un discorso alla nazione in cui si dichiarava guerra alla Germania. Devo dire, tutti e due sono dei film molto belli, dovete vederli. Il terzo contendente per il premio Oscar è The Fighter, il combattente, una storia di due fratelli pugili e uno di loro diventa campione. Ma sentiamo il regista del film, David Fincher, regista di Social Network, e l'attore protagonista Jesse Eisenberg, in un'intervista esclusiva per l'Italia ad America 24. Are you ready to have a wonderful show, ladies and gentlemen? The nominees are, and the Oscar goes to. Are you waiting for the Academy Awards to see what's going to happen with that? Yeah, I mean, the whole process has been, you know, so overwhelming, and frankly, a lot of the awards that we've been winning, I didn't know existed. You know, we've won awards for, you know, at film festivals and by groups that I didn't know existed. So it's been overwhelming to wake up every day and see that, you know, the Oklahoma City Film Critics Circle has named Social Network Best Picture, you know, when you didn't know that they had an award. And so such an honor. Ci sarà l'Oscar. Jesse Eisenberg è teso davanti a questa domanda, ma non nasconde di avere qualche speranza, non fosse altro perché Social Network ha già incassato una gran quantità di premi su vari fronti, dice, ero talmente sorpreso di svegliarmi al mattino e di ricevere una telefonata perché avevamo ricevuto un premio, magari da un'organizzazione che per me era sconosciuta, come miglior film, come miglior attore, come migliore scenografia e così via. Dunque non nasconde, pur facendo le dita incrociate, di sperare di poter essere nel gruppo dei 5 film che saranno nominati come opera migliore per la premiazione degli Oscar alla fine di febbraio. The movie doesn't really have a message, but you know, one of the things I like about it is that it presents a very complicated issue from a few different sides and allows the audience to kind of figure out where the truth is. You know, it doesn't say that, you know, character A is wrong and character B is right. It says that character A and B are both right and you have to decide who you kind of feel deserves. Questo film, dice, dal mio punto di vista non ha davvero un messaggio, però quel che mi piace è che riflette vari punti di vista e lascia al pubblico la possibilità di scegliere se Mark Zuckerberg si è comportato in modo del tutto trasparente oppure se in effetti ha rubato l'idea a qualcun altro. È piaciuta la sua interpretazione a Zuckerberg? Beh, dice, so che in un'intervista ha fatto soltanto un riferimento molto preciso, ha detto che siamo stati bravissimi in questo film nell'esporre tutti i suoi lati negativi, meno, dice, quelli positivi. It's a rare thing to see, you know, a major motion picture studio want to make a drama about a collection of 25-year-olds. Fincher mi dice che secondo lui è molto raro vedere una casa di produzione grande, importante come Columbia accettare di fare un film controverso, difficile, un dramma tra 25enni un po' viziati che sono in un ambiente universitario, in un ambiente di college. Eppure, dice, lo hanno accettato, hanno capito che poteva essere un'idea molto buona e questa idea ha funzionato. Chiedo poi a Fincher se davvero pensa che Zuckerberg possa avere rubato l'idea. La sua risposta, come sentirete, è molto chiara. No, I think inspiration comes from a lot of different places, and I think that the true innovation of Facebook and the true technological wonder of it is something that could not exist. No, è la risposta chiara di Fincher, perché l'ispirazione, sostiene, viene da molte parti, l'ispirazione a fare qualche cosa, e la verità, dice, che anche se altre persone potessero avere avuto un'idea simile a quella di Zuckerberg, Facebook non sarebbe mai esistito senza il suo lavoro, senza le sue idee e senza questa straordinaria meraviglia tecnologica, dice, che è riuscito a mettere insieme. Dunque, nonostante il film lasci qualche dubbio a proposito, dal punto di vista di Fincher, Zuckerberg ne esce indenne, esce come un eroe in fondo del nostro tempo. Chiedo poi sulla questione della privacy e la risposta di nuovo è molto semplice. Beh, se scegli di andare su internet, in qualche modo scegli di rinunciare alla privacy, dice. Nessuno ti mette la pistola alla tempia costringendoti a entrare su Facebook. Se lo fai, in qualche modo sai che dovrai rinunciare a qualche cosa e dunque diventa una libera scelta. Accusare Zuckerberg o Facebook di non tutelare la privacy, secondo lui, è un po' ingenuo. Gli chiedo dunque, in conclusione, se è iscritto a Facebook. Not to use his technology. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ho tratto una delle canzoni della colonna sonora del film Social Network, composta da Trent Reznor e da Ross Atticus. Questa canzone, assolutamente in tema, molto tecnologica, si chiama Paint the Sun in Abstract, una delle canzoni che, ve lo ricordo, ha vinto il Golden Globe come miglior colonna sonora. Thank you.